Roberto Imberti, Sinistra Ecologia e Libertà, Cinisello Balsamo. Voi avete già dichiarato il vostro appoggio a Bersani nei giorni precedenti a questo ballottaggio. Un commento a caldo dopo questo risultato ormai chiaro. Il commento è solamente di soddisfazione per il risultato politico. Quando abbiamo dichiarato di votare Bersani, abbiamo precisato che il voto non era un voto contro, ma un voto per un progetto politico. Questo progetto ha le gambe per andare avanti, con un impegno e una necessità di misurarsi già dalle prossime elezioni politiche. Pensiamo che il percorso che i nostri partiti hanno condotto in questa fase e l'esercizio democratico che è stato svolto siano unici, forse in Europa, e sicuramente abbiano rimesso in collegamento il popolo della sinistra con i partiti. Cosa che non sembrava semplice, non sembrava scontata, ma che sicuramente è stato un grande successo. Anche il fatto che i riflettori dell'antipolitica si siano abbassati è un segnale importante. Riteniamo che finalmente si ritorni a parlare di dignità della politica, di ruolo dei partiti. Bisogna correggere il tiro, bisogna riuscire a fare passaggi concreti, rinnovare il gruppo dirigente dei partiti e riuscire anche a esprimere dal punto di vista amministrativo e politico facce e volti nuovi. Questo è un percorso che penso che Bersani, anche in forza del risultato che ha avuto, possa garantire. Ecco, guardiamo anche al piano locale. Settimana prossima si vota in Lombardia per le primarie, per la scelta del candidato del centrosinistra nella corsa alla presidenza regionale. Primarie civiche, un contesto un po' diverso, ma potranno essere trainate dal risultato di oggi e delle primarie nazionali in generale. Sicuramente tra 15 giorni al voto delle primarie in Lombardia avremo un risultato di partecipazione che speriamo possa misurarsi con l'attuale. Non sarà facile replicare, i tempi sono stretti, i 100.000 volontari che hanno lavorato in questi giorni in Lombardia per quanto li riguarda ci saranno. Il risultato sarà un risultato anche qui importante perché metterà finalmente in rapporto con PD, SEL, Italia e Valore, in questo caso in Lombardia, un percorso di alleanza per cambiare e svoltare a livello regionale. Il dopo Formigoni sarà difficile da costruire, però penso che in questo momento, a partire da scelte di candidatura forte come quelle che sono in campo, si possa raggiungere questo obiettivo.